Salva Danaio di Deborah Rosciani. Giornata, benvenuti a tutti a Salva Danaio. Ieri la riforma del condominio che ha mandato quasi in tilt il nostro centralino, oggi un altro argomento che ci aspettiamo produca gli stessi effetti. Parliamo delle novità sul codice della strada, relativamente al codice della strada, che è sempre bene tenere sotto controllo. Sono novità che è sempre bene tenere sotto controllo perché siamo tutti al volante un bel po' di tempo tutte le giornate, qualche volta non siamo sempre aggiornati su cosa cambia nel panorama delle infrazioni che si possono commettere, delle sanzioni che ci possono colpire. Allora, oggi faremo un quadretto, come vi dicevo, sulle principali novità, tenendo anche conto del fatto che la riforma del codice attende il sì definitivo del Senato entro la fine di luglio. Oggi dovrebbe iniziare questo rush finale a Palazzo Madama. D'altronde si vorrebbe farle entrare in vigore queste nuove norme magari prima del grande esodo estivo di agosto, come evidenziavano nei giorni scorsi molti giornali. 61 articoli che porteranno ad una piccola rivoluzione. I campi sui quali si interviene sono molti, con sanzioni più severe per esempio chi guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di droghe, ma aumentano anche anzi si modificano, perché non sempre aumentano, gli importi delle multe per gli eccessi di velocità. Insomma, tanti punti sui quali discutere questa mattina, sui quali fare chiarezza, e come sempre ci aiuta il comandante Silvio Scotti, comandante della Polizia Municipale di Monza, esperto su queste tematiche per il Sole 24 Ore. Comandante, buongiorno. Ben trovati. Tra l'altro, come va in questo periodo? Il caldo ha dato alla testa gli automobilisti? Avete più problemi del solito oppure tutto sotto controllo? Ma direi che tutto sommato siamo in linea con il normale periodo estivo. Benissimo, 800 24 00 24, il numero verde per le curiosità, le domande degli ascoltatori. Ci sono anche, visto che noi parliamo a Salva Danaio di denaro, anche tutte le novità relative al cambiamento dei tempi di notifica delle multe. Allora magari anche su questi aspetti faremo tutta la dovuta chiarezza. Le multe a rate, visto che di soldi parliamo, allora soffermiamoci anche proprio sugli aspetti economici delle sanzioni comminate a chi non si comporta molto correttamente quando si trova alla guida della propria auto. Vi ho ricordato i numeri per intervenire: l'800 24 00 24, numero verde per prenotare gli interventi in diretta, oppure scriveteci al 349 238 6666 per i vostri messaggi. Andiamo a vedere un po' la borsa, cosa fa questa mattina. Allora, era partita bene l'Europa, poi ci ha ripensato, ha azzerato tutto, poi è ritornata in positivo, adesso perde su tutti i fronti e perde anche in maniera significativa, nonostante stamattina abbiamo solo buone notizie con le quali confrontarci. Allora, Parigi sta perdendo 1,5 punti, Francoforte perde l'1,26, Londra perde lo 0,58%, il FTSE MIB a Piazza Affari perde l'1,74%. Cosa succede? Allora, intanto abbiamo avuto questa mattina una nuova asta di titoli di Stato greci, titoli di Stato a 3 mesi, e sono stati collocati quasi 2 miliardi di euro al 4%. La domanda ha superato di quasi 4 volte l'offerta ed è la seconda asta da quando Atene ha ricevuto gli aiuti dell'Unione Europea maggio scorso per scongiurare il default del paese, e quindi questa ci sembra una buona notizia. Abbiamo buone trimestrali stamattina, particolarmente il settore del lusso ad essere galvanizzato dopo la trimestrale per l'appunto di Hermès. Il gruppo ha fatto bene e questo sta aiutando gli acquisti su Bulgari, per esempio a Piazza Affari è l'unico titolo positivo. A Milano sta guadagnando l'1,27%, ma anche i concorrenti francesi, i principali competitors francesi, Elvemache guadagna lo 0,4%, anche Pinot Pritemp era positivo ma adesso scende dello 0,17%. Per cui come mai è tornata questa ondata di pessimismo ancora non lo abbiamo capito. Se troverò delle ragioni ve le ridarò, naturalmente ve le darò nel corso della trasmissione. Gli altri titoli in movimento a Piazza Affari, vediamo quelli che stanno trascinando a ribasso il listino, sono Fiat che perde 3 punti, tutto il settore automobilistico scende, il Banco Popolare meno 2,83, Prysmian meno 2,83, abbiamo un ribasso di 2,5 punti per Unipol ed STM, meno 2,4 per UbiBanca, meno 2,3 per Saipem, Mediolanum, Telecom e Campari, meno 2 abbondanti per la Popolare di Milano, Atlantia, Generali, Lotto Mar, politica in pregiro. L'euro stamattina aveva riconquistato 1,30 sul dollaro, lo ha perso di nuovo questo livello, questa soglia, adesso siamo a 1,29,18. Lasciamo la borsa, andiamo al tema di oggi e sentiamo un po' quali sono le principali novità che arrivano con la riforma del codice della strada. Multe a rate, sanzioni più severe per chi guida in stato di ebbrezza e chi supera i limiti di velocità e tempi di notifica ridotti a 90 giorni. Sono alcune delle novità in arrivo con la riforma del codice della strada, che attende il sì definitivo del Senato entro la fine del mese. In particolare, le novità colpiranno tutti i cattivi comportamenti al volante, ma anche i portafogli dei conducenti con multe decisamente salate. Da 500 a 2.000 euro per chi guida con tasso alcolemico tra 0,5 e 0,8 grammi per litro, fino a 3.200 euro e arresto da 6 mesi a un anno per chi è sorpreso con un tasso superiore a 1,5. Multe fino a 1.559 euro per chi guida minicar o ciclomotori truccati, ma anche per bar, hotel e ristoranti se non metteranno a disposizione dei clienti degli etilometri. Niente sconti per il capitolo droga. Multe fino a 6.000 euro e arresto fino a un anno per chi guida sotto l'effetto di stupefacenti. Una novità che interessa da vicino la maggior parte degli automobilisti, infine, è quella relativa agli autovelox, che dovranno essere piazzati ad almeno un chilometro dal segnale del limite di velocità. E naturalmente già partono, soprattutto da studio, comandante Scotti, ma credo che negli ultimi mesi di queste considerazioni lei ne abbia sentite tante, le perplessità proprio sul livello del tasso alcolemico, le relative multe per chi viene trovato alla guida appunto con questi tassi, basta un bicchiere di birra per raggiungerli naturalmente e ci si può addirittura vedere sottratta l'auto seduta stante, però magari di questo parleremo strada facendo nel corso di Salvadanaio. Mettiamo però subito un po' di paura ai malintenzionati che in strada sono sempre troppi per i nostri gusti, poi parleremo anche di chi beve magari solamente appena un bicchiere di vino e rischia una sanzione piuttosto importante. Questo giro di vite imposto dalle correzioni del codice della strada colpisce, lo dicevamo anche nella nostra scheda, i cattivi comportamenti al volante. Pensate anche chi non soccorre animali coinvolti in incidenti stradali. Comandante, una situazione nella quale anche lei è incappato, mi raccontava sì, prima. Precisamente, dunque, innanzitutto mancava una norma specifica, adesso è stato aggiunto questo comma 9 vis all'articolo 189 che prevede una sanzione piuttosto severa, perché chi non dovesse fermarsi immediatamente soccorrendo gli animali e ponendo in essere le prime misure di soccorso rischia una sanzione amministrativa che va da 389 a 1.559 euro. Una norma che mancava, una norma di civiltà, bisognerà ovviamente ottemperare a questo che è un dovere civico, ma diventerà anche un dovere giuridico. Certo, anche perché lo dicevamo prima in questa telefonata, questa chiacchierata che ci siamo fatti prima dell'avvio della trasmissione con il comandante Scotti, naturalmente è una norma appunto di civiltà, come dicevamo, perché chiaramente qualche volta si investe un animale, lo si lascia di mezzo tramortito per strada e questo naturalmente deve muovere quantomeno la pietà umana. Detto questo, qualche volta poi magari la carcassa di un animale che rimane lì, non immaginiamo anche quanti danni possa provocare successivamente a chi ripassa su quella strada. Magari siamo in una situazione di notte, comandante Scotti, non si vede e qui sono guai a domino in sostanza. Certamente una carcassa di un animale può diventare pericolosissima, dobbiamo pensare non soltanto ai veicoli a quattro ruote che godono già di una certa stabilità dinamica, ma anche quelle a due ruote, addirittura deve bastante trovare la carcassa di un animale non avvistata in tempo e può provocare dei danni gravissimi. Comandante, di queste novità relative al codice della strada parliamo da un sacco di mesi, un po' come ci è successo ieri per la riforma del condominio. Sarà l'estate buona secondo lei per vedere, affinché queste norme possano vedere la luce? Pare di sì, perché pare che il passaggio al Senato sarà un passaggio estremamente rapido. Ricordiamo che la riforma si dava già per pronta lo scorso anno proprio in questo periodo, dopodiché sembrava rinviata a settembre, poi ne abbiamo ancora parlato quest'inverno, speriamo che questa sia la volta buona. È senza dubbio una riforma molto complessa, come giustamente ricordavi sono oltre 60 articoli e tocca molte parti importanti del codice e ovviamente c'è stato dietro un dibattito e un lavoro lavoro anche per riunire le diverse proposte e i diversi punti di vista. Per fare i cosiddetti testi unificati. In sostanza, allora, comandante Scotti, da che cosa cominciamo? Le novità che toccano il portafoglio. Intanto, la multa. In che tempi, qualunque sia l'infrazione che abbiamo commesso, ci deve essere notificata? Ma soprattutto, quali sono le sanzioni che ci vengono notificate? Perché non esistono più le multe che vengono appioppate seduta stante all'automobilista così che non si comporta proprio correttamente al volante? Certamente, anzi esiste un obbligo ben preciso, la polizia stradale deve sempre, nei limiti del possibile, notificare le sanzioni, però diciamo la verità, quelle più problematiche sono quelle che ci colpiscono a sorpresa, per esempio il divieto di sosta che praticamente non viene mai contestato, troviamo semplicemente il preavviso e quindi non abbiamo la possibilità di interloquire direttamente con chi l'ha rilevato e poi ovviamente tutte le apparecchiature che rilevano le infrazioni a distanza, quindi ricordiamo il tutor, l'autovelox e tutti gli altri apparecchi per quanto riguarda la velocità, gli ingressi nelle zone a traffico limitato, le corsie protette, l'ecopass, tutte queste situazioni qua che rappresentano ovviamente percentualmente la grande maggioranza delle violazioni. Ecco che a partire da quando entrerà in vigore la riforma non ci saranno più 150 giorni di tempo come l'attualità per ricevere a casa la classica raccomandata, bensì soltanto 90 e ovviamente tutti dovranno adeguarsi. 90 giorni, 90 giorni lavorativi naturalmente, quindi sono qualcosa di più di 3 mesi. No, sono proprio 90 giorni giusti. Non sabato e domenica compresi. Esatto, sì, sabato e domenica vengono conteggiati, saranno 90 giorni precisi che partiranno dal momento in cui si è verificata la violazione. Qua ci sarà ovviamente qualche problema di riallineamento perché i tempi sono notevolmente ristretti, ma bisognerà rispettarli. Allora, multe aumentate per neopatentati e conducenti professionali in stato di ebbrezza. Qua il giro di vite è particolarmente importante, ha sollevato tante polemiche. Comandante, su queste io non vorrei tornare, atteniamoci un po' a che cosa cambia e all'entità anche della sanzione che viene comminata a chi viene trovato in condizioni di scarsa, se non nulla, lucidità al volante, perché ha bevuto, perché si è drogato, comandante? Certamente, allora cominciamo subito a dire che la novità più grossa riguarda alcune categorie di conducenti, cioè quelli di età inferiore ai 21 anni, quelli che sono nei primi 3 anni del conseguimento della patente di categoria B, coloro che esercitano professionalmente l'attività di trasporto di persone o di cose o comunque di veicoli molto grandi. In questo caso sarà vietato bere in qualunque misura prima di mettersi alla guida. Quindi anche superare di poco lo zero comporterà una sanzione che va da 155 all'attualità a 624 euro. A lei sembra proporzionata la sanzione rispetto all'infrazione, poi chiamiamola così, perché non so poi se guidare in stato di ebbrezza, magari in gergo tecnico si può definire infrazione, però questo è proprio un comportamento da deplorare secondo me in termini abbastanza assoluti. Poi c'era Roberto, il ragazzo che sta alla regia con me questa mattina, che dice ma insomma veramente noi ragazzi non potremo più neanche andare a bere un bicchiere di birra. Ma insomma, le chiedo proprio rispetto all'infrazione, la sanzione secondo lei è adeguata? Ma io direi che senza dubbio questo tipo di riforma, in particolar modo l'articolo 186 bis del quale stiamo parlando, è improntato ad un notevole rigore, questo senz'altro, perché in realtà gli studi dell'Unione Europea, anche se in alcuni casi raccomandano dei limiti molto bassi, indicano che comunque entro certi tassi alcolemici non esiste un vero e proprio pericolo per quanto riguarda la circolazione stradale. Questa, diciamo, è una norma improntata da un certo rigorismo proprio per mettere freno a quei comportamenti che sulle strade molte volte causano dei disastri immani. Non le sto neanche a raccontare quanti messaggi sono arrivati a proposito del primissimo argomento che abbiamo trattato, che è quello del soccorso agli animali coinvolti in incidenti stradali. Ovviamente qua poi il bestiario umano è quello che più si attiva quando si parla di certi argomenti. Io adesso non vorrei esagerare esagerare, nessuno ha detto che l'animale conta più della persona, cioè adesso cerchiamo anche di fare delle considerazioni di buon senso, mi riferisco a quelli che devono sempre partire a mille a razzo su certi argomenti, ma se investo una nutria non sono autorizzato da chi a dove, come mi regolo, meditate gente o mi sanzionate per una cosa o per un'altra, io non capisco neanche proprio il senso di certi commenti, siamo al limite della demenza umana, se faccio un incidente investendo un animale e mi ferisco devo pure soccorrerlo adesso, comandante. No, certo, non è questo il buon senso, il caso, dove ci dovrebbe fermare? No, assolutamente, non è assolutamente questo il caso. In realtà questa, io credo che, ripeto, si tratti di una norma di civiltà. Qua si tratta di un investimento che ovviamente non ha causato gravi problemi all'investitore. No? Si tratta dell'investimento dell'animale d'affezione, dell'animale da compagnia, si tratta quindi di una situazione completamente diversa. Chiaramente chi ha subito il danno alla persona deve pensare prima di tutto a se stesso e agli altri esseri umani coinvolti, ci mancherebbe altro, stiamo parlando di altri casi. E infatti speriamo di averlo chiarito una volta per tutte, su questo argomento non ci vorrei più tornare. Comandante Scotti, allora, sulla questione degli animali avevo detto che non ci volevo tornare, ci ritorno subito però, ma vorrei chiudere abbastanza rapidamente la parentesi. Prendo a spunto un messaggio che ci arriva al 349-238-6666 di un ascoltatore che molto chiaramente dice: allora, siate chiari, cosa devo fare secondo la legge se investo e ferisco un cane? Comandante, questa cosa ci può capitare in autostrada dove gli animali vengono abbandonati, oppure perché uno stambecco improvvisamente attraversa la carreggiata, e quindi io immagino che in autostrada, se questa cosa ci capita, io non posso fermarmi improvvisamente e fare retromarcia e andare a soccorrere l'animale. Cosa diversa che se ci capita in una strada di provincia, in una statale, in una strada un po' meno trafficata, insomma, ecco, è comunque, come dire, una circostanza che si presta alle interpretazioni più diverse. La legge è chiara su quando e come io come dire, provoco un danno tale per cui mi deve essere comminata la multa? No, dunque, allora, innanzitutto siamo di fronte ad un sinistro stradale. Essendo di fronte ad un sinistro stradale, la prima regola è quella di evitare che ce ne sia un secondo. Se è possibile, laddove esiste la corsia di emergenza, ci si ferma, si indossa il giubbotto ad alta riflettenza se è necessario e si pongono in essere quelle cautele per evitare un ulteriore incidente, quindi il classico triangolo, la segnalazione, quant'altro. Se non si è in quelle condizioni, la cosa migliore è cercare di informare immediatamente l'organo di polizia che è titolare dei poteri di intervento, specificare semplicemente che cosa è avvenuto e poi ovviamente l'organo di polizia metterà in atto le precauzioni del caso. Teniamo conto che soccorrere non significa necessariamente prendere l'animale, accudirlo, bendarlo, eccetera, ma allertare i soccorsi, in questo senso la normativa. Quindi anche lì la telefonata all'organo di polizia, visto che non esiste ancora un pronto soccorso dedicato agli animali valido in tutte le regioni. Ecco. Perfetto, quindi anche quello significa prestare soccorso anche non avendolo fatto direttamente perché non si è nelle condizioni di poterlo fare. Allora, prima di parlare del giro di vite sulle minicar e più in generale delle nuove norme che riguardano i ciclomotori, io andrei a qualche domanda di qualche ascoltatore che come sempre in maniera molto interessante animano la nostra trasmissione all'800240024. Andiamo ovviamente, Stefano, io prima telefonata che accolgo è quella marchigiana, buongiorno. Buongiorno Nicoletta, buongiorno. Sì. Niente, io ho un problema abbastanza rilevante, anche se poi sta diventando una questione di principio. Nell'aprile 2008 entro in una via ad accesso, diciamo, non autorizzato o autorizzato, quindi era un senso unico che ha preso al contrario, Stefano, no? No. Ah. E queste vie dove uno dovrebbe avere il permesso per entrarci, ovviamente non me ne accorgo. E nell'agosto, nel successivo agosto, mi viene fatta la notifica della multa. Però sono passati i 150 giorni di norma, sono esattamente 157 giorni. Benissimo. Io vengo chiamato dall'ufficiale, dalla guardia municipale del mio luogo di residenza, ovviamente faccio presente che erano superati i 150 giorni, ma lui mi dice: guarda Stefano, firma comunque perché la notifica va firmata. Ok, ma di prassi presumo che venga poi annullata automaticamente, perché se loro hanno la necessità della notifica dei 150 giorni, certo, e presumo che venga annullata, mentre poi successivamente mi arriva la cartella esattoriale, non più dalla Polizia Municipale di Macerata, ma la cartella esattoriale, che ovviamente la multa viene raddoppiata con e tutte le storie che sappiamo. Adesso lei che cosa ha fatto? Ha fatto ricorso al giudice di pace? Ho fatto ricorso al giudice di pace dicendo chiaramente che secondo me esisteva la nullità, visto che il tempo di notifica aveva superato i 150 giorni, quindi il giudice di pace nella prima udienza, una confusione enorme nella sala del giudice di pace, rinvia perché comunque c'è la polizia che si oppone dicendo che è vero che sono stati superati i 150 giorni, ma io comunque avrei dovuto poi successivamente oppormi alla cartella esattoriale non più nei 60 giorni che io supponevo avessi come termine, ma bensì nei 30 giorni. Allora io ho detto: scusa, ma qui stiamo spostando il problema, cioè se voi avete un termine di notifica che sono i 150 giorni, li avete superati voi, ovviamente secondo me decade, esiste la nullità del procedimento, quindi io posso anche non essere tenuto a dover Stefano, fare qua dovremmo, allora io la interrompo solo perché chiaramente stamattina, siccome dobbiamo prendere in considerazione le novità del codice della strada e qua insomma se fosse già in vigore il nuovo pacchetto legislativo, non ci sarebbe il problema perché la notifica adesso deve essere fatta entro 90 giorni, come ben ci spiegava il comandante Scotti. Detto questo, comandante, intanto anche lei fa firmare le notifiche a tradimento al comando di Polizia Municipale di Monza? No, perché abbiamo un sistema automatizzato, ma in ogni caso il procedimento è corretto ed è corretto anche quello che sta sostenendo la Polizia Municipale, però si tratta di un problema di tipo formale, perché in realtà l'ascoltatore avrebbe dovuto firmare la notifica, sì, ma subito poi presentare il ricorso contro il verbale. Adesso lui non può più far valere i vizi originari, ma solamente i vizi della cartella, e la cartella ovviamente non è viziata. Il procedimento non è quello da svolgere di fronte a giudice di pace, cioè, ma mi che con capire, probabilità lui rigetterà il ricorso. Il procedimento è un altro e si chiama discarico della cartella esattoriale. Deve presentare una lettera, una missiva al dirigente o al sindaco del luogo, a seconda delle competenze, come si sono divise le competenze nel comune, e spiegare la situazione chiedendo che la cartella esattoriale venga annullata in via di autotutela. Altrimenti, purtroppo, se ci fosse dall'altra parte una sorta di muro di gomma, dovrebbe risolversi a pagare la cartella esattoriale e poi chiedere il rimborso per ingiustificato arricchimento, perché ovviamente quella cartella non va pagata sotto il profilo sostanziale. Poi magari facciamo una cosa, Stefano, gli diamo così questo procedimento per iscritto, comandante Scotti, se ci aiuta glielo mettiamo per iscritto a Stefano, così almeno può, come dire, documentarsi bene e agire questa volta senza come dire sbagliarsi anche nella forma, perché poi è sempre quello che ci frega. Fabrizio dalla provincia di Milano, buongiorno. Buongiorno a lei, professa. Allora, la mia è un'informazione. Io abito nelle vicinanze di Magenta. Sì. Tra Vittuone e Sedriano, grosso modo, quando vado verso Milano, appunto, trovo un cartello segnalettico che mi dice che la velocità è 50 all'ora. Mm-hmm. Ok, mi sta bene. 200 metri o 300 metri dopo c'è una fine di velocità massima 60 all'ora. Più avanti ancora 200-300 metri c'è un fine velocità di 70 km orari. E lì è arrivato là, lei si è finito la frizione, Fabrizio. E io cosa faccio? Fare tutti questi se dovessi incorrere in... Quale è buono? Vabbè, intanto buono? Fabrizio, avendo imparato a memoria la posizione dei cartelli, si attenga scrupolosamente, cammini entro i 50 km per il primo tratto, entro i 60 per il secondo, comandante Scotti. Insomma, queste sono un po' anche le follie della segnaletica stradale, certo, perché queste vanno riconosciute anche, ma insomma, l'ascoltatore cosa dovrebbe fare? Intanto magari segnalare al sindaco di Magenta che è un tratto gestito un po' male dal punto di vista della segnaletica o che cosa? Questo senz'altro. Allora, innanzitutto si tratta di vedere di chi è il proprietario della strada, potrebbe essere una strada provinciale. La provinciale. Esatto. Dopodiché si tratta di una delle tante situazioni problematiche della segnaletica, dove non esiste un piano coordinato e soprattutto una manutenzione adeguata della segnaletica, e così si sovrappongono diversi segnali che alcune volte sono contraddittori. Qua è evidente che inizialmente c'era un limite di 70 km orari, poi è stato abbassato una prima volta a 60 e poi ulteriormente a 50. Peccato che si siano dimenticati anche di adeguare la segnaletica preesistente. Quindi lui che cosa deve fare? Insomma, nel caso gli venisse contestata una qualunque violazione su quel tratto, per quanto riguarda la velocità che comunque fosse contenuta entro i 70 km orari, è evidente che esiste una contraddittorietà della stessa, quindi le possibilità di vittoria sono enormi. Comandante Scotti, allora, chi viene trovato alla guida di minicar o ciclomotori truccati verrà sanzionato dalla riforma in avanti con una multa che va dai 389 ai 1559 euro, ma soprattutto verranno colpite anche le officine che modificano minicar e ciclomotori. Questa è una novità? No, non è una novità, è sempre esistita, diciamo che qua viene meglio precisata, no? Perché riguarda comunque sia chi pone in vendita sia chi effettua le modifiche sui ciclomotori, e vengono colpiti nel caso della vendita di ciclomotori o city car che superino i 45 km orari con la sanzione da 1000 a 4000 euro, e invece con la sanzione da 779 a 3119 chi effettua le modifiche successivamente alla vendita, mentre come giustamente è stato sottolineato la sanzione è da 389 a 1559 per il conducente. Benissimo. Due messaggi metto insieme prima di ritornare a chiacchierare con il comandante Silvio Scotti, comandante della Polizia Municipale di Monza, che questa mattina ci aiuta ad orientarci nelle novità che dovrebbero essere nelle nostre nuove abitudini entro breve, le novità relative al codice della strada. Allora, c'è un ascoltatore, Paolo, che ci racconta che fa l'agente di commercio, fa almeno 60.000 km l'anno, giovanissimo, peraltro 27 anni. Lui dice: chi guida non deve bere mai, in nessun caso, come per le sostanze stupefacenti. Io non sono un angioletto, nemmeno un ingenuo, ma di macchine sventrate ne vedo troppe, so di cosa parlo. Quando esco la sera e guido, mi bevo un'aranciata. La patente non è un diritto acquisito per nascita. Io qui, Paolo, sposo completamente le sue riflessioni, anche perché lo reggo pochissimo l'alcol, mi addormento dopo veramente appena lo annuso, e quindi. D'altro canto c'è anche Gerardo che ci scrive: assumo spesso, causo problemi ai bronchi, sciroppi medicinali a base alcolica, faccio il camionista, come mi devo comportare per il tasso alcolemico? Comandante. È un problema serio. Allora, sulla base di verifiche che abbiamo potuto effettuare, all'attualità gli etilometri, nel caso di situazioni tipo medicinali o comunque sciroppi secondo la prescrizione medica, non rilevano il tasso alcolemico perché è eccessivamente basso per essere rilevato. Deve portarsi della documentazione che attesti le sue condizioni di salute. Ma senz'altro una documentazione medica è importante. Teniamo comunque conto che l'influenza è di sciroppi o cose del genere veramente bassissima. Ma può rischiare di far superare proprio il primo gradino del tasso alcolemico che solamente in casi residuali 0,5. Attenzione, che per quanto riguarda i camionisti, quindi il conducente professionale sì. A partire dalla novità entrata in vigore sarà zero. Si incorrerà altrimenti in una sanzione amministrativa. Benissimo. Stavo leggendo intanto un altro ascoltatore, Claudio, che dice: mi hanno fatto 61 euro di verbale per aver dimenticato di cambiare il tagliando dell'assicurazione. Com'è possibile? Se passavo con il rosso mi davano l'ergastolo, comandante Scotti. Il tagliando dell'assicurazione va sempre esposto, questo non è oggetto delle novità del codice della strada, però. Esatto, e d'altro canto la sanzione è prevista proprio perché in quel modo la gente può controllare anche a macchina ferma e in assenza del conducente la copertura assicurativa, altrimenti diventerebbe problematico. È prevista che debba essere esposto e cambiato annualmente. Comandante, adesso io faccio la spia. Una persona che lavora insieme a me, non faccio il nome perché si vergogna profondamente, si è accorta, perché ne parlava con un'amica, che le è scaduta la patente, è andata in giro un po' a patente scaduta. Se ci avessero, a me non è capitato un paio di anni fa, devo dire che anch'io per una settimana per il rotto della cuffia me ne sono accorta, ma insomma, se questo capita adesso, magari circolare in una città è un conto, ma se si circola in autostrada per esempio con la patente scaduta in buona fede è chiaro che uno si comporta così in buona fede, mettiamola così, però insomma se ci beccano che succede? Beh, dunque è un problema, perché in realtà la patente viene ritirata, viene mandata alla prefettura di competenza, è necessario poi presentarsi alla prescritta visita medica e soltanto dopo la visita medica è possibile riottenere la patente. E la però ci possono ritirare l'auto, possono impedirci seduta? La conduzione del veicolo è consentita fino ad un luogo di custodia dello stesso, poi però non ci si può più muovere fino a quando la patente non è stata rinnovata. Manuele da Treviso, buongiorno. Sì, buongiorno. Sì, io volevo intervenire riguardo i limiti di velocità delle nostre strade, perché a volte li trovo veramente assurdi. Trovo i limiti di 70 all'ora su strade extraurbane di rettilini che sono un'istigazione alla velocità, e poi ti trovi il vigile che ti fa la multa su certi posti. E poi riguardo i motorini, anche perché le auto al giorno d'oggi non sono più come 30 anni fa, di frenata, quelle cose lì sono molto migliorati. E un'altra cosa, i motorini a 50 all'ora, secondo me è un limite, è troppo poco 50 all'ora, perché io vedo per strada molti motorini che sono sorpassati da camion, e questi camion passano a 30 centimetri dalla persona che sta guidando questo motorino che di più di 50 non può fare, e io lo trovo sia molto pericoloso questa cosa, quindi secondo me dovrebbe essere rivista. Lei ha aperto dei dibattiti su più fronti. Io peraltro sui camion faccio almeno una o due volte al mese il tratto autostradale Milano-Ancona, e devo dire che, con tutto il rispetto per queste persone che lavorano, che a volte devono raggiungere le località dove depositare la loro merce, scaricarla in tempi rapidissimi, io mi rendo conto che sono soggetti a volte dello stress incredibile, però questo è un ambito, quello dei conducenti professionali, che è molto delicato, e non sempre queste persone si comportano molto correttamente alla guida. Io, comandante Scotti, faccio molto spesso la A14, che è una autostrada a due corsie, e si ingaggiano a volte delle gare tra loro e bloccano la rete autostradale per lunghissimi tragitti. Ci sono tanti ambiti sui quali magari il codice della strada dovrebbe intervenire. Detto questo, in sostanza il commento che ha fatto il nostro ascoltatore sui limiti di velocità, a volte per certi tratti autostradali eccessivamente bassi? Beh sì, innanzitutto è vero, cioè nel senso che ci sono alcuni cartelli davvero di limiti eccessivamente bassi e non se ne percepisce il motivo. Infatti io ripeto sempre che il problema non è il controllo effettuato, ma la validità del segnale. Se il segnale ha una sua validità, se è stato studiato, se oltre una certa velocità esiste un pericolo serio, allora va rispettato. Altrimenti non è il problema del controllo, ma va eliminato quel segnale e sostituito con uno più congruo. Per quanto riguarda invece i ciclomotori, ricordiamoci che comunque per caratteristiche costruttive, funzionali e anche l'utenza ai quali sono destinati, i 45 km orari sono ritenuti congrui, non devono essere, non sono delle moto. Se uno ha necessità ulteriore può acquisire ovviamente una moto, comprare una moto, ma a quel punto scatta anche l'obbligo della patente, una capacità di guida superiore, delle cautele completamente diverse. Ovviamente all'ambito degli animali ci siamo dovuti ritornare, però volentieri vorrei ascoltare questa storia di Luigi da Belluno, perché anche lui ha ragione, perché credo che voglia raccontarci di un investimento di cui si è reso protagonista suo malgrado, e però per i danni che ha subito chi paga? Luigi, buongiorno. Sì, buongiorno. Ci racconti cosa le è successo? Ah, guardi, lo scorso settembre, una sera, verso le 11:30, sull'autostrada da Venezia a Belluno, vicino a Treviso, in una semicurva, uscendo da una semicurva, ho visto qualcosa fermo in mezzo alla strada, un animale che era già morto. Praticamente avrei dovuto fare una manovra brusca per evitarlo. Quindi ho preso e immediatamente ho chiamato la polizia stradale, che sono intervenuti. Naturalmente si è rotto l'intercooler della macchina, andando sul radiatore eccetera eccetera, abbiamo fatto venire il carro attrezzi, portato via la macchina. Certo, e lei dice però a me che mi paga? Ecco, no, poi la polizia mi ha detto guarda, siccome c'è l'assicurazione sull'autostrada, ho fatto richiesta all'autostrada competente, poi è andato a finire a Roma, poi da Roma mi hanno chiamato, mi hanno detto guardi, il tasso è considerato come un volatile. Esatto, quindi non era un animale custodito. Mi permetto la battuta, che gli ho detto che non ho visto tassi che volano, no? Nel senso che Però a questo punto poi ho un intervento qua a provincia, qua a regione, eccetera, però nessuno fa i danni. Certo. Luigi, aspetti lì, comandante Scotti, allora, quindi la situazione è diversa. Se fosse stato un cane sfuggito al controllo del suo padrone sarebbe stata una cosa, il tasso invece è un animale selvaggio, selvatico, non certo. Di questa situazione nessuno risponde? Certamente, però io dico che in entrambi i casi c'è stato il danno. Se ci fosse stato un danno anche fisico avrebbe risposto il fondo di garanzia per le vittime della strada. Ah, in ecco. Esatto, in questo caso non c'è un ferito, però il danno esiste ed è anche vero che ritengo che l'autostrada data in concessione necessiti anche di una certa vigilanza e anche l'accollo di alcuni rischi, tra cui ci sono esattamente anche quelli del tasso. Ricordiamoci anche che nei confronti dell'autostrada normalmente sono sistemate delle barriere proprio per evitare che gli animali possano comunque introdursi. Io ritengo che ci siano gli estremi perché intervenga la garanzia assicurativa, però dovrei esaminare meglio la pratica. E va bene, se il nostro ascoltatore, se il nostro Luigi ha tempo di scriverci e magari un po' argomentarci meglio l'accaduto, tanto ormai ha perso un sacco di mesi, e uno più uno meno, ma magari riesce anche a spuntarla. Sentirei, visto che ritorna sulle minicar, poi Angelo vengo anche da lei, però vorrei far passare avanti un attimo Silvano da Pesaro. Silvano, buongiorno. Buongiorno a lei. Rapidissimo, se ce la fa, sì. Ti diamo tempo anche al suo collega. Sì, io dico questo, le minicar sono macchine a tutti gli effetti, quindi tu sorpassi un minicar è come superare una macchina. Secondo me 45 di velocità è poco, perché intralciano nel traffico, prima cosa, e se trovi nelle strade strette queste cose qui è fatica a superarli, e quindi secondo me la velocità dei 60 per delle macchine, delle minicar così andrebbe più che bene. Benissimo. E volevo dire anche l'altra cosa, sui camionisti, dato che sono un autotrasportatore, sì. È vero quello che dice lei, ci sono molti trasportatori purtroppo adesso con la globalizzazione che non hanno rispetto di niente, specialmente arrivano quelli dall'est, pagati in zero, Italia lo so. Non ci sono strade, lo so. Non ci sono strade. Silvano, purtroppo, guardi, sa, questo è il problema. È vero, no, ma in realtà io ho fatto una considerazione solo perché mi trovo a percorrere un certo tipo di strada molto frequentemente e soprattutto in questo periodo, voglio dire, viaggiare a 60 all'ora in autostrada, perché ci sono dei camion che si fanno la gara tra di loro e si sorpassano, e questo sorpasso dura per 20 minuti perché ognuno non vuole dar la vinta all'altro, lei capisce che qualche volta anche per noi è un po' un problema. Detto questo, poi tutto il rispetto, anzi, lavorate serenamente, perché poi d'estate è particolarmente dura per voi. Comandante Scotti, e allora le minicar avrebbero bisogno di un aumento del limite della strada, secondo le considerazioni di Silvano, perché sono delle auto a tutti gli effetti, certo, ha ragione. Teniamo rapidissimo conto. Perché ho 40 certo. Secondi prima di chiudere. Certamente, teniamo conto che si tratta di velocità studiate, cioè esistono delle prove scientifiche a riguardo per quanto riguarda la sicurezza e ovviamente sono strutturate di conseguenza. Inoltre teniamo conto che si possono guidare all'età di 14 anni, ecco, esatto. E con i limiti dei ciclomotori. E quindi, no, anche perché oltretutto io vedo adesso una regolamentazione che arriva con questo codice della strada, ma a me non capita neanche di vederne così tante in giro, invece evidentemente ci sono, anche alla luce di quanti danni hanno provocato, anche mortali, in certe zone d'Italia, in certi momenti. C'è stato un momento in cui l'esplosione del dibattito su questo argomento è stato ferocissima, e però allora ci ritorneremo cogliendo di nuovo le perplessità di tutti. Tra le 22 e le 7 è vero che sanzione per semaforo rosso è maggiorata, ci chiedeva Angelo da Torino, comandante? No, stanno eliminando quella ecco. Grava, però è ancora in corso il dibattito. Visto che non l'abbiamo potuto ascoltare, certo. Almeno gliel'ho fatta io. Comandante, abbiamo detto tutto sulle novità sul codice della strada che stanno arrivando? È mancata la rateizzazione, complesso. La lasciamo stare per un'altra puntata, magari prima dell'estate. Comandante, intanto grazie e buona giornata. Buona giornata a tutti. Grazie anche ai miei collaboratori, a Gaia Romani per la collaborazione in redazione, oggi a Roberto Scaltritti che finalmente si è degnato di ritornare a fare la regia di Salvadanaio dopo tanto tempo. Buona giornata, noi ci risentiamo domani e andiamo a sentire un po' cosa è successo a Viaggi del Ventaglio, cercando di capire se ci sono o no delle famiglie che sono rimaste invischiate in giro per il mondo perché hanno comprato un pacchetto con questo tour operator fallito. Buona giornata.